Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Lasciare, dimmi almeno perché. Io non so capire perché tu vuoi fuggire da me. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me. Ma se vuoi andare, non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi, dimmi almeno il perché. Il tuo amor non era sincero, i tuoi baci non erano veri, i tuoi occhi mi ha sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare. E se questo nuovo mondo fosse una pataca, come la mettiamo? Poi cosa facciamo? E se questo nuovo mondo fosse una pataca, come ritorniamo? Se poi ci accorgiamo. Dai, prendiamo il treno insieme, quello delle 5:12. Il primo del mattino andremo, metti in fila i tuoi pensieri, i teoremi matematici. Dammi la mano, andiamo. Vamos. E se questo nuovo mondo fosse una pataca, poi cosa facciamo? Noi non ci perdiamo. E se questo nuovo mondo fosse una pataca, come ritorniamo? Ma come ritorniamo? Siamo guardiani del tempo, i piloti di un aeroplano. Possiamo andare lontano, possiamo andare ma senza dirlo con nessuno. Siamo custodi di un sogno e testimoni della memoria. Come vera la storia in questa notte che cambia. Dai, prendiamo il treno al volo, quello delle 5:12. Il primo del mattino. È rimasto poco tempo, certo che va bene anche così. Dammi la mano, andiamo. Sguardo accattivante, prendi il mio io. Giacca luccicante in autostop. Giri per le strade al buio senza paura. Sali in macchina di fretta, cuore di cera. Ma meno male prendo ancora il wifi. Ho lasciato la mia testa a Hawaii e mi ritrovo solo nel mio standby, standby, standby. In disisteggio sulla sabbia tu stai. Io a casa tengo mentre annaffio un bonsai. A testa alta io ti lascio. We style, we style, we style. Torni a casa stanca, pelle di sale, doccia borotalco per attirare. Ma meno male prendo ancora il wifi. Ho lasciato la mia testa di Hawaii e mi ritrovo solo nel mio standby, standby, standby. In disisteggio sulla sabbia tu stai. Io a casa tengo mentre annaffio un bonsai. A testa alta io ti lascio. We style, we style, we style. Non so se vale ancora il tuo ritorno. Dirò che hai fatto parte del mio sogno. Uscire da qui senza farsi male, senza farti male. Non voglio credere sia così ingiusto per te aspettare il momento giusto per cadere nelle mie braccia e non pensarci mai più. Ogni volta dico che sarò più veloce, ma una fitta qui sale sul petto fino a perdere anche la voce. Sento che è più forte, più forte di me. È più forte di me, sei più forte di me. Forse perché non sono come te, non sono come te, non sono come te. Io non sono come te, come te, come te, ma i nostri occhi sono come te che cadono giù. Poi cadiamo giù e rimaniamo soli senza una luce in una notte. Dove vorrei solo te, solo te, solo te, ma non sono come te, come te, come te, come te. Non sono come te che ti arrabbi tipo ogni due passi. Come te che sai fare solo passi falsi. Mi chiedevo se in fondo un po' falsa lo fossi, perché ad ogni domanda lo vedo negli occhi tuoi quando siamo solo noi. Non ti capirò mai. Ogni volta dico che sarò più veloce, ma una fitta qui sale sul petto fino a perdere anche la voce. Sento che è più forte, più forte di me. È più forte di me, sei più forte di me. Forse perché non sono come te, non sono come te, non sono come te. Io non sono come te, come te, come te, ma i nostri occhi sono come te che cadono giù. Poi cadiamo giù e rimaniamo soli senza una luce in una notte. Dove vorrei solo te, solo te, solo te, ma non sono come te, come te, come te, come te. È la gente come me, che sa solo farsi male, che ogni volta poi dal cuore, ogni volta alla gente come te, che non gliene può fregare, tu mi vuoi solo pregare, dimmi solo se vuoi fare a meno di me. Anche se non sono come te. E sono troppi i problemi che ti legano, ma sono il tipo di persona che si lega e non può far più a meno di te. Non troverà ancora uno come me. Every time I want to ride, every time need no makeup. But I'm switching on the bad side, but she only do the clean up. Dark Phoenix here to come, this time I'll try goose. Keep on over, over, over. On the rack, six round sharp device. All prison bodies, hard on the knife edge. I want you call me divine. Dark Phoenix here to come, this time I'll try goose. Keep on over. I can't do it free. Recién un tener splendida. Che Dio me guide, si de ti. Si me estraña, llamo un taxi. Ven a casa, siamo un party. La camarito era il Mecati. Tu sempre busca alla Marti. Si tu me estraña, llamo un taxi. Che muoio un po', con tutti sono forte, ma con te no. Quando siamo insieme il mio cuore è KO. Non ti credo se mi dici di no. Nella mia testa tu resti e non te ne vai più. Come te non ne fanno più. Che Dio me guida, si de ti. Si me estraña, llamo un taxi. A casa siamo un party. La camarito era McCarty. Tu sempre busca alla Marti. Si tu mi estraña, andiamo un taxi. Le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri. La sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni. Hai come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai ai ai ai, come sempre sei un'emozione fortissima. Hanno detto che ti manco nostalgia di quando eravamo inseparabili, si fianco a fianco, alleggeriti da soffi di vento, raffiche forti, minuti troppo corti. Schiena contro schiena, ma stesso destino, quello di un ego troppo forte, ma stesso cammino. Eppure senza te faccio ancora passi storti, restiamo in due negli stessi panni sporchi. Stesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere. Cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo presto, fra almeno altri 5 anni. Città è sparita e sono solo io che non trovo il mio posto. Vorrei dare di morso a questo mondo. Ho solamente un gelato al gusto amaro che neanche mi va. Ho reagito, mi sono sforzato, ma proprio non mi va. E penso solo a quanto bruciano i campi, cuori, lampi su nel petto. Magari dopo butto le tue cose, ma mi fa male. Bruciamo le storie delle persone. E penso solo a quanto piangono i santi, mia madre, il cielo dentro al petto. Magari adesso mi sparo un'altra puntata con la testa spenta e gli occhi socchiusi. Come mai, come mai, come mai è capitato a me? Tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai, dimmi davvero perché. Avrò ammazzato qualcuno in un'altra vita, avrò bruciato la giungla dove era la tua casa, ma non ricordo nient'altro e non ci credo che sia andata davvero, davvero, davvero così. Il giorno dopo Ferragosto, Rimini è felice, l'autostrada è piena, i miei capelli sono salici, una foresta di lacrime. Che tanto un taglio nuovo e cambi vita, cambi persone, cambi facce, sempre la stessa sensazione. E pulsa un cuore di vita su nelle arterie che vita, radici nuove, stessa chioma, nuovo scenario, stessa poltrona. Come mai, come mai, come mai è capitato a me? Tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai, dimmi davvero perché. Avrò ammazzato qualcuno in un'altra vita, avrò bruciato la giungla dov'era la tua casa, ma non ricordo nient'altro e non ci credo. Te ne sei andata davvero, davvero, davvero. Me lo dicevano, la storia si ripete, ma al contrario ti dà un calcio così forte che prendi il volo e ti dà un bacio così amaro. Ora sei solo, ora sei solo. Me lo dicevano di quanto le cose belle finiscono e quando urla sto silenzio patisco. E te lo giuro io bambino non ci ho mai creduto, mai creduto, mai. Come mai, come mai, come mai. Tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai. Quante volte ti spaventi coi tuoni, nelle cuffiette solo Wonder e Beach Boys. Quante volte, quante volte hai rovinato la fiancata dei tuoi, che di certo ha visto giorni migliori. Quanti giorni, la twin, il tuo cane, poi l'ultimo esame, contesta la multa alla municipale, la serie che ti guardi solo per quella d'or, ma non sai neanche il nome. Cala il silenzio dell'Alaska, luci di una città fantasma, resti di polvere lunare, non sole tracce di colore. E sei un'ora tropicale, disastro da ammirare, sei l'effetto speciale di qui, senza gran finale. Paesaggi fatti male, su foglie di giornale, perché hai dimenticato la notte a furia di sognare. Quante volte i tuoi occhi arcobaleno sono stati allontanati dal cielo. Quante volte, troppe volte. Cala il silenzio dell'Alaska, luci di una città fantasma, resti di polvere di colore. Sei un'ora tropicale, disastro da ammirare, sei l'effetto speciale di qui, ma senza gran finale. Paesaggi fatti male, su foglie di giornale, perché hai dimenticato la notte a furia di sognare. Sei un'ora tropicale, disastro da ammirare, invisibile giorno e di notte, la luce che mani suona in alto mare. Aurora tropicale, io mi sento di affogare, tu non dimenticare la notte a furia di sognare. $1,000 was... Trovi la radio giusta per te? Sintonizzati sui 103.10 in FM e la troverai. Radio Città Fujiko. Cosa aspetti? Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Stare qui al sapore dell'eternità, dopo aver amato te. Io ti guardo mentre dormi accanto a me. Non ti sveglierò, oh no, no, no, perché tu sorridi. Un bel sogno, forse una c'è dietro alle ciglia. Dentro ai sogni Sweet. play that game you're playing. You can play that game. Yeah, play that game. Oh, oh. To play that game, girl, think about it before you. You can play that game you're playing. You can play that game. Yeah, play that game. Yeah, you're playing. You can play that game. I say too. You can play that game. You can play the game. Lo sai, sono dovuto andare sulla luna per sentirmi meno solo e maledire la sfortuna di averti smarrita un giorno da qualche parte. Come si perde la pazienza, un treno, un bottone, senza sapere quando né dove. Che poi mica ci vuole così tanto a fare finta di campare e dirsi in fondo è una fortuna non avere nessuno da salutare. Ma tra la fretta e la pazienza c'è tanto silenzio, c'è fame. Avrei voluto dirti un po' di cose, ma poi mi sono morte in bocca le parole. Avrei voluto dirti che la gioia è il tuo sapore, ma i tuoi silenzi addormentati erano lividi che se li sfiori fanno male. Lo sai, ci sono inverni che non riesco più nemmeno a ricordare se abbiamo avuto mai fortuna prima di perderla un giorno da qualche parte. Come si perde la pazienza un tempo, dolore, senza capire quando né come. Avrei voluto dirti un po' di cose, ma poi si sono spente in bocca le parole. Avrei voluto dirti che la gioia è il tuo sapore, ma i tuoi silenzi addormentati erano brividi che se li svegli fanno male. Hey. Non so bene cosa c'è all'esterno, mirando il mondo dietro ad uno blò. Una goccia non vale l'oceano. Le cose belle sono sempre le più difficili da amare. Fragile che per difenderti io non ti posso più sfiorare. Non capisco se tu fingi, per te niente drammi. Vorrei avessi gli occhi tristi e questo vuoto d'aria, tutto all'aria. Bubble, bubble, bubble, che se ci tocchiamo poi scoppiamo. E pop, pop, pop, quanto altro fiato perderò, oh, oh, dentro questa bubble. E il mio bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble. Già. Respira a parte che fa invidia alla morte. Questa pioggia, anche se cade, sembra la fine ma ritorna a mare. Un'onda, posso crollare ma non mi vedrà mai che sto male. In onda, fingi, per te niente drammi. Vorrei avessi gli occhi tristi e questo vuoto d'aria, tutto all'aria. Bubble, bubble, bubble, che se ci tocchiamo poi scoppiamo. E pop, pop, pop, quanto altro fiato perderò, oh, oh, dentro questa bubble. E il mio bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, pop, pop, pop. Ma che colpa ne ho se ci soffierò ancora. Sono sotto il tuo portone, scendi amore, ti devo dire solamente due parole. Il mio treno parte tra poche ore, perdonami ti prego, no non ti incazzare. Non ti scordare mai di me, diceva una canzone. Una canzone.